sulla gran gioia traditora, metti la sella al vostro buon ronzin. D'un bel mattin d'amor che me levava, d'un bel mattin d'amor che me levava, metti la sella al vostro buon ronzin e dor sulla gran gioia traditora, metti la sella al vostro buon ronzin. Gran gioia traditora, metti la sella al vostro